Un italiano su tre vive a casa dei genitori. Il problema è che gli altri due sono i genitori. Con in mano il testamento tipo: nonno, quando muori? Di 40 anni dire ancora mamma dormo fuori. È noto che l'italico soffre di stress post-traumatico da cellulare scarico. Tipo che l'iPhone smette di scrivere e tu smetti di vivere. Pazzo per gli autoscatti? Sei fotosensibile? Su Facebook si è iscritta a metà popolazione. L'altra metà ha ancora dei problemi con il modem. I suicidi ormai non fanno più tanto rumore. In tuo onore ci sarà un minuto di silenziatore. Il mio paese chiama Facchinetti figlio d'arte. Come andare da McDonald's e dire vado al ristorante. Un vecchio è un pericolo se guida una Mercedes. Figuriamoci quando è la guida di un paese. Generazione televoto, con cervelli sottovuoto, sempre più risucchiati dal televuoto. Generazione beat, generazione pop, no, rigenerazione, generazione boh. I don't know boh. I don't know boh. I don't know boh. I don't know boh. I don't know boh. I don't know boh. I don't know boh. I don't know. C'è ancora chi crede in un posto migliore, per questo si fa le valigie e si parte. C'è ancora chi crede in un mondo migliore, per questo mandiamo le sonde su Marte. L'Italia a forma di stivale, per questo prendiamo calci in culo dalla sera al mattino. Ma in fondo se ci pensi ci è andata pure bene. Pensa se era forma di preservativo. Ricariche dello Stato, con le tasse che ho pagato compravo mezzo Senato. Come si chiama la carica da parte dei poliziotti sui manifestanti? Cariche dello Stato, rinuncia alla casa e alla villa con vista. Un italiano su tre rinuncia anche al dentista. Viviamo in condizioni precarie che molto presto diventeranno carie. Generazione televoto, con cervelli sottovuoto, sempre più risucchiati dal televuoto. Generazione beat, generazione pop, no, rigenerazione, generazione boh. I don't know boh. I don't know boh. I don't know boh. I don't know boh. I don't know boh. I don't know boh. I don't know boh. I don't know. Non ci fermiamo alle precedenze, ma ci fermiamo alle apparenze. Abbiamo più punti interrogativi che punti di riferimento. Guardiamo tutti le stesse cose. Indossiamo gli stessi vestiti, mettiamo le stesse scarpe. Siamo specchi che non riflettono. Prigionieri del presente in un paese senza futuro. O reagiamo, o ci ritroveremo a cucire l'orlo del baratro. E a quel punto i rimorsi faranno più male dei morsi. I don't know boh. I don't know boh. I don't know boh. I don't know boh. I don't know boh. I don't know boh. I don't know boh. I don't know. I don't know.